Una buona serata da parte di Max Macchia, ovviamente un ciao generale, ecco così, per par condicio, ecco, rispetto a anche chi non si ascolta la sera, 451 frammenti sonori che ritorna appunto proprio qua sulle frequenze di Radio Città Fujiko, oppure appunto sul nostro blog, oppure che ne so, via internet, in streaming, fate un po' voi, ecco, come vi trovate meglio, chiaramente, una delle cose insomma vagamente decenti appunto della faccenda social è sicuramente questa, e poi ovviamente vabbè, non allargo il discorso sulle comunicazioni, che non è il caso in questo momento. E soprattutto ci porterebbe ben lontano dalla serata di 451 frammenti sonori dedicata all'Homemade questa sera, come tema della trasmissione. Homemade, che è possibile anche così, capite anche che, come dire, essere critici non significa soltanto essere negativi, anzi tutt'altro. La pars construens, cioè come bisogna, anzi, come dire, dialettizzarla e portarla, potenziarla, ecco, in questo senso, attraverso appunto il metodo dialettico, ma senza insomma fare ulteriormente preamboli rispetto alla trasmissione di 451 frammenti sonori, e soprattutto dell'incipit legato a futuri rumori, dedicato sì all'Homemade e dedicato appunto, un po' come già in nuce stavo accennando, a quello che è la comunicazione che può avvenire anche prima, a questo punto, dei social, per quanto riguarda buona parte di questa serata di 451. Per futuri rumori invece parliamo di faccenda legata anche alle comunicazioni. Ovviamente futuri rumori funziona come comunicazione soprattutto virtuale, in termini appunto di scambio di file, poi può essere anche ovviamente faccenda legata e cosa invece supporti fisici, ci mancherebbe, anzi, con il ritorno per molti versi del tape, che interessa tra l'altro anche il progetto di Gianluca Favaron e Anacleto Vitolo, che mettiamo proprio appunto in apertura questa sera di 451, e soprattutto dentro appunto i futuri rumori, comunicazioni che sono avvenute attraverso appunto social e insomma attraverso mail, che portano insomma a ragionare poi di fatto sulle musiche, sui futuri rumori, poi di fatto sulle composizioni che vengono tratte da materiale poi trattato in maniera elettroacustica, con quel senso anche storico per quanto riguarda sia Favaron che Vitolo, e quella consapevolezza, potremmo dire, delle musiche sperimentali che sono passate sotto i ponti e sotto anche le pontificazioni, perché no, da queste parti ogni tanto le facciamo anche di carattere ovviamente legato alla ricerca, appunto all'esperimento, a questa costanza nello spostare avanti, questo tentativo, e dentro il lavoro tra l'altro piuttosto interessante di Gianluca Favarone, Anacleto Vitolo, Zolfo, c'è quella materia che sia il titolo e sia anche proprio decisamente sia la forma, quindi che contenuto va di pari passo, ben contenti che questa faccenda sia così espressa in maniera anche piuttosto chiara. Zolfo in alcuni momenti riesce veramente a avere quella sorta di veramente di carattere legato allo zolfo, legato quindi al fuoco, legato ai fumi anche, perché no, è legato anche una vivacità sonora, una vitalità data da quell'effetto quasi vulcanico che c'è in alcuni momenti di esplorazione, di esplosione anche, che Zolfo riesce appunto a solcare. Noi andiamo a prendere i due pezzi che aprono appunto questo zolfo, tratto edito da una sussidiaria, potremmo dire, di Silentes 13 tra parentesi 3, e Starting Point zolfo, e poi altro pezzo, Discourse 2022, ecco, sì, che appunto vanno a esplorare sia quel mondo elettroacustico che è ben presente ai due compositori, che provengono tra l'altro da preparazioni accademiche, poi come dire, spostate anche attraverso un esperimento, soprattutto quello legato alle elettroniche e alla dialettica elettroacustica, a tutto quel percorso che in questi giorni, in questi anni, sta portando anche le musiche non soltanto appunto in ambito elettronico, ma più generale elettroacustico, termine che forse tra qualche anno perderà di valore, ma proprio perché l'elettroacustica è già di fatto, seppur ancora legata a un'idea di composizione più o meno colta, di fatto sta diventando faccenda legata se vogliamo, a un immaginario sonoro molto più diretto. Magari non ce ne si accorge quasi, ma anche dentro le musiche pop c'è questo aspetto elettroacustico, soprattutto da parte di grossi produttori, o comunque c'è nelle parti più interessanti, forse in quello che butta e getta i semi del futuro anche in termini di pop. Qua siamo ancora comunque in termini di sperimentazione, anche se con una grossa volontà che si esprime attraverso una comunicazione piuttosto anche diretta, appunto, prima dicevo quasi una sorta di materia esplosiva che drona e poi va a cercare un impatto quasi noise, però molto controllato, e questo forse è anche un po' la qualità di zolfo e della materia appunto sonora che attraversano Gianluca Favaron e Anacleto Vitolo, che appunto presentiamo dentro Futuri Rumori. Beh, buon ascolto ovviamente, ça va sans dire, eh? veramente notevole il lavoro di Favaron insieme Gianluca Favaron, diciamo tutto, insieme a Anacleto Vitolo, molto contenti, come spesso accade da queste parti, per appunto l'inserimento dentro Futuri Rumori, disco che vive, come abbiamo anche sentito, di momenti appunto su Furey, di momenti esplosivi legati ovviamente appunto al nome del disco, del lavoro Zolfo. Momenti che comunque vengono piuttosto controllati e veramente dà anche idea della bravura sia di Favaron che di Vitolo, e soprattutto per quanto riguarda la manipolazione della materia sonora concreta, di quello che è poi legato al nastro, al tape loop, e quindi anche tutto quel lavoro fatto anche proprio sull'elemento analogico, anche qua la dialettica appunto tra elettronica, digitale, quindi anche software che vengono utilizzati appunto per implementare quel suono concreto, quello potremmo dire sporcizia naturale, tra virgolette, se fossero appunto suoni naturali semplicemente e non costruiti attraverso anche una certa sapienza appunto nella manipolazione, anche nella modulazione poi del suono, della frequenza, dell'intera composizione creata appunto attraverso l'elemento concreto di fatto, insomma. Mi perdonino insomma chi non ama le ripetizioni, però di fatto Zolfo e quindi la materia sulfurea ci sta, e come mi fa veramente molto molto piacere il fatto che ci sia appunto questa come accennavo prima, questa possibilità data da una forma che diventa contenuto, anzi veramente con una dialettica decisamente interessante e decisamente anche portati in avanti rispetto a quello che è il suono elettroacustico, anche con quel portato delle musiche industrial che dentro si sentono, forse più legato a quell'industrial noise, più legato a una sorta di muro sonoro, di drone, un po' anche come questa continuazione di 451 frammenti sonori dopo Futuri Rumori, legata a due personaggi, Mark Barreca, che andiamo ad ascoltare con un suo lavoro legato tra l'altro proprio all'industria, Music Works for Industry, qua l'elettroacustica di Mark Barreca, che già a metà degli anni 70 faceva i primi suoi esperimenti, va ad impattare quel suono ripetitivo, quel suono ridondante, se vogliamo, della società industriale, e con la sperimentazione legata alle possibilità di manipolazione di quel suono, del loop, e anche con quella capacità poi elettroacustica, anche la sua, per certi versi una sorta di maestro minore, potremmo considerarlo, forse poco conosciuto. Comunque qualche tempo fa la Vinyl on Demand ha fatto anche una bella riedizione di opere e dei primi lavori appunto di Mark Barreca, quindi, come dire, anche adesso la certificazione di una etichetta eccezionale per ripescaggi, per capacità di far tornare quasi a un grado zero la scrittura sonora, soprattutto legata comunque a quelle sperimentazioni, come accennavo prima, appunto industrial o simili. Qua con anche quella visione che era dentro Mark Barreca e quella capacità di trattare l'elemento elettroacustico veramente in maniera piuttosto originale, seppur in altri momenti, mi sentiremo tra poco tra l'altro con un progetto decisamente anche questo bello e interessante, che fu anzi bello e interessante, con anche quella materia ignana di Bremino che ha informato di fatto e formato la stragrande maggioranza dei musicisti già dalla fine degli anni 70, appunto con la sua ambient, che non era soltanto musica appunto legata a un immaginario poi potremmo dire fissato o comunque poco mobile o mobile soltanto orizzontalmente, citando quindi il rizoma di Deleuze, ma anche con delle verticalità, dei momenti comunque di rottura che si sentono dentro le musiche di Ino, che forse hanno preso più gli allievi come Marc Barreca, in questo caso senz'altro è più vicino a un elemento elettroacustico, seppur non perdendo quella poi capacità di trattare appunto il loop, in questo caso quello rumorista dell'industria, appunto come il suo lavoro già titola Music Works for Industry. Marc Barreca. Thank you. Marc Barreca con il suo Music Work for Industry, anche qua materiale così quasi sepolto dentro le musiche sperimentali degli anni Ottanta. In questo caso però per Marc Barreca vale anche il discorso le sperimentazioni già partono, come accennavo prima, alla fine degli anni 70, proprio con la materia ignana, però più perturbata, se vogliamo, forse di certi momenti di Ino, non legati magari ai famosi ambient, ma forse ai dischi. Quelli anche che erano cantati ma che avevano delle parti decisamente sperimentali, potremmo dire anche proto-industriali per molti versi, questa atmosfera, ecco qua ci vuole anche qua sul Furia, con appunto queste inquietudini che attraversano le musiche sperimentali, in questo caso da parte di Marc Barreca con l'elemento elettroacustico e con quella caratteristica che era molto forte alla fine degli anni 70, primi anni 80, cioè quella di andare anche a volte anche a schiantarsi proprio rispetto a un immaginario molto, molto pesante rispetto a quello che era. Per certi versi è stato anche non il canto del cigno, perché il cigno insomma è animale bello se non anche se sgorbutico, il canto diciamo di una società industriale vista e immaginata per circa un secolo in una certa maniera, quella dell'industria pesante, ovvio che poi c'è stata la dislocazione di quell'industria e va da sé, insomma, non mi sto a dilungare su quelli che sono stati poi immaginari anche spostati, no? Verso appunto il digitale e quindi anche quello che per molti versi è stato anche appunto uno spostamento poi in termini sia di produzione ma non soltanto musicale, ma potremmo veramente allargare il discorso, ma come al solito insomma li lasciamo sempre un po' così andare poi per fatti loro o per fatti vostri, perché magari come dire potreste anche continuare un accenno appunto soltanto mio di riflessione per poi appunto magari farlo evolvere in qualcos'altro, appunto qualcosa di molto più senz'altro sia più raffinato che ovviamente più compiuto. Qua, come dire, c'è un doppio binario rispetto al linguaggio musicale, ai tempi che ovviamente mi portano non a dilungarmi più di quanto lo faccio, appunto, e anche appunto a quello che queste musiche portano e da quello anche che queste musiche prendono avvio, prendono avviamento, potremmo dire anche qua, perché stiamo parlando di motori, anche motori dell'industria di Marc Barreca, come motori dell'industria, però ecco qua si fa un po' più astratta la faccenda, se con Glass and Steel Number 1 e Number 2 abbiamo trovato dei lavori che comunque appunto avevano questo trattamento del loop industrialoide, potremmo dire, e per quanto riguarda invece Savant, progetto bello e anche importante nel suo essere insomma minore, con tutto che quello che adesso sta avvenendo da qualche tempo a questa parte, il recupero appunto anche di situazioni minori. E Savant era formato un collettivo, potremmo dire musicale, formato da Marc Barreca e Keir Leimer, o Leimer anzi, visto che viene dall'Austria, quindi e I diventa I, dovrebbe essere così, con un disco di culto come Neorealist, si va a trovare quella materia iniana, e con in più anche tutto quello che era successo sia in termini di trance music, quindi la trance rock del californiana di certi Savage Republic, di Aprodus, e faccende che da Steve Roach a altri, a Vidma Umana, stavano cambiando in termini anche di ambient, quindi si stava mischiando con una sorta di ritual music, con quindi le commistioni anche legate a John Hassell, anche qua le musiche possibili. E ci andiamo appunto ad ascoltare proprio da questo progetto ignano, sì, ma appunto con queste, potremmo dire, derive, forse potremmo dire in questa maniera, tanto per trovare qualcosa, insomma, di evocativo, ecco, rispetto alle musiche di Savant. More acid through the urine, thereby expelling the nicotine along with it, tended to want to smoke again. Being a listener for a long time, and in fact the idea, the notion of being a performer in any sense didn't occur to me until I was 16, I think, except I did a little singing at the youth club once. Thank you. E in chiusura, dopo appunto questa splendida scorribanda, potremmo dire astratta, però quindi è stata anche di paradosso musicale, quello di delle musiche possibili, appunto quasi una cercare un barbarico, un primitivo dentro musiche tecnologiche fortemente anche tali. Tra l'altro abbiamo ascoltato musiche che provengono da una trentina d'anni fa abbondanti, ecco, e quindi con anche un homemade che di fatto porta in avanti più che avere limiti, cioè forse il limite appunto dell'homemade, dove sono partiti sia Marc Barreca che Kay Lamar, è stato più che altro un limite che ha portato a escogitare, a ricercare delle strade poi piuttosto anche originali, seppur, come ho sottolineato più di una volta, con i maestri presenti, soprattutto in primis, ecco, citando appunto uno su tutti, Bragnanino. Concludendo, che Lamar va un po' insomma di pari passo rispetto a Marc Barreca, Savant, dove appunto c'era anche lui. Ci andiamo a prendere un frammento da un suo vecchio lavoro, appunto dei primi anni Ottanta. Vi rimando a mercoledì prossimo, continuiamo il discorso magari dell'homemade, magari anche ascoltando qualcosa di recente, sia di Barreca che di Kay Lamar, perché insomma continuano a avere insomma un certo ardore ancora nella ricerca, ecco. Poi magari avremo modo appunto di ascoltarle mercoledì prossimo o nei dintorni, insomma, nelle prossime settimane. E alla prossima, quindi, ciao da Max Macchia, fate bravi. E basta, sì, basta e avanza se ci riuscite.